Sì. Fruscia, fruscia. Coso, uno spettone, cazzo, ti fa facendo diventare scemo. Guarda, cazzo. L'anno degli spezzoni è questa volta. L'hai vista la radio questo utilizzando? No, questa mattina ho avuto da fare, no, non l'ho vista, adesso me la vedo, l'hai mandata. Ehi, è questa che sto usando. Intanto la modulazione è bellissima. Questo è questa che sto usando adesso, eh. Sempre solito microfono MB5. Non ha mica che in questa radio, ma è molto, molto, molto, molto bella. Forse la migliore che ho. La modulazione ti piace, buona? Buona, buona. Già la conosci questa radio, piaceva anche a te. Molto, molto buona. Molto bella. Il segnale com'è, buono? Eccellente, buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao Marco, buonasera anche a te, dai. Va bene, va bene. Ehi Claudio, stavo vedendo, ogni tanto sul profilo pubblichi una radio diversa, no? Vintage. Ma sono un bijou queste radio, ma ce l'avevi nell'armadio da parte oppure roba presa nuova? Una parte praticamente erano dentro l'armadio, sia questa, il Pace e l'Inuit che l'avevo venduto, li ho comprati. Ma il Milan che ci hai preso qua? Eia, il 574, stamattina l'ho preso a Gianni. Capito, ce l'aveva anche di fare del cammino. Come sta uscendo di segnale di radio? Ma si è agganciato? Sì. In fondo scala, sì, qua. Purtroppo generoso mi sembra questa radio. Oltre 9 più 30, sì. Appena appena di saturazione. E beh, un rientro ciò, come mai? Ehi Gianni. Non sono importante, no? No, forse Gianni che sta uscendo con un fischio già, tu sì. Come? Gianni, se era importante volevo parlare sotto in banda laterale, riesce a passare, dovrebbe, non lo so. Quindi ti piace la modulazione in questo? Sì, ottimo, ottimo. Hai detto 574, quella è? Sì, Midland base modello 78-574, 40 canali con le bande laterali, bella, molto, molto, molto, molto bella. Sul profilo, sull'immagine del profilo, una era di quelle che ha una parte orizzontale e una parte verticale, presente, stile americano, e l'altra è una radio che non ho riconosciuto perché è un po' sfumata la foto, e ha tre transmitter, mi pare a base scura, transmitter, tre tipi di indicatori vari. Quello è lo standard, modello non lo vedo. Lo standard comunque base, sempre 220, bellissima anche quella, eh. Sto cercando, Gianni, hai risolto? No, sono attento a questa spinge. Questa viaggia, c'è una bellissima ricezione. Ma base? Ah, 78574, super rara, c'è scritto su YouTube, lo sai? Non voglio roba che hanno anche gli altri, roba che praticamente è un po' difficile da trovare, dai. È nuova, sì, molto bella, molto, molto bella. Sandrino! Bici che? Sandrino! Non c'è Sandrino qua, no? Stella! Per il re! Sandrino, mi senti? Per il re là! Eia, già ti sento! Sandrino, dove sei? Mi senti? Per il re! Eia, che ti sento, forte e chiaro! Dimmi a Sandrino, cosa c'è? Ecco, fumo, Sandri! No, ma l'ho tutto fumato stamattina! Ecco, non è che c'hai qualche spicciolo in tasca che ti di quelli arrotolati, e dopo fatti vedere te lo do. No, oh, quelli con la brittella. No, quelli li ho messi dentro la caldarella. Certo, proprio lo fai nuda, no? Ma non c'è il fumo. Asco, ganasce di 850, ne hai? Ganasce? No, la perivella mi è rimasta, il manubrio. Che bebe. L'hai vista, Marco? C'è un nannini. Vista, vista. Non è enorme, non è enorme, se è questa. Questo c'ha una voce molto più bassa della tua, sembra tipo orco. Sasquatch. Uno che recensisce quella radio, sì, quattro manopole, uno smitter, quattro interruttori. Eia, non è di quelle enormi, dai. Comunque si dice super rara, c'è scritto sulla recensione. E quindi è buono, dai. Riprendete. Claudio, guarda adesso, la radio chiara. Io ti ascolto bene già. Sì, diciamo che è chiaro. Non so Marco se ti sente peggio o meglio di me, bro. Aspetta, già, prova sul 15, se è libero, sul 15, fammela sentire attenuata, che se no facciamo tutta la sera prove. Vai sul 15. Aspetta, aspetta un attimino, aspetta, Cla. Aspetta. Oh, questo un piccio si muove qua, poco a poco. Perché l'antenna poco a poco l'ho spostata, se vuol dire perché stava toccando il radiale allo stenditoio. Adesso è perfetta. Va bene, allora grande, stai andando benissimo, non c'è problema. Andà bene. Allora, ecco qua. Ah, no, ho capito cosa vuol dire. AVG. Cioè, allora, in AVG mi dà oltre 20 watt. Non ho mai capito già cosa sia qualcosa. Non so. Quello strumento lì uguale a te mi sembra che ce l'abbia qualche un altro. Gigi forse ce l'ha, non so. Aia, aspetta un attimo, arrivo subito. Vai, vai, già sono qua. Marco. Prova già. Marco dice che c'è te alternata, boh. Eh sì, c'è alternata già. Guarda così. Sì, sì, sento alternata. Ci mettete a messaggiare il diretto interessato e dire il perché di tutto ciò, se è lui davvero. Beh, il segnale è quello, la zona è quella, cosa? Stiamo cercando di proteggerlo, ma non ha capito ancora. Alla fine poi qualcuno fa il nome. Io non mi interessa, a me fastidio la maniera, guarda. Lo so, però a Gianni le chiude la ricezione, gliela chiude. Stava provando, però sentivo un'alternata su Gianni, non lo so perché, prima bassa, poi aumentato, senza portante, l'alternata di suo, boh, dove ti dica. Io ho detto c'è alternata, non so cosa è derivata questa alternata, boh. Guarda con questo apparecchio come sto andando, Claudio. Non massa, guarda, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, non massa. Sì, che lo passi. E adesso va bene, alternata non ce n'è. Ma manco a me sente Gianni, pensando di usare l'ordinario e tu. No, non ti sentono, non sento a nessuno io. Lo passavo? Sì, da me sì già. Sì, sì già, anche qua lo passi, però tu non senti nessuno, quindi è un controsenso. Sì, con questa radio va bene, con l'altra c'hai alternata già. Vabbè. Boh, non lo so cosa gli sia preso, cosa l'abbia preso. Che radio è? Questo è il 2009. E l'altra, quella con l'alternata, che radio è? Galaxy. Torra. Ma cosa c'è, l'epidemia di spezzoni? Lo spezzone l'ho messo apposta, adesso sembra che stia andando tutto bene, boh. Ah, boh, cosa vuoi ti dica? Cazzo che gusti, che prova a mettere portante, boh. È proprio gente ignorante, va, ignorante. Ne avevo senso una parola. Come segnale come sta arrivando Claudio con questo? No, è quasi 9 più 30, sì. Cava cava. Però ti ripeto, è molto generosa questa radio, bisogna che mi faccia regolare lo smitter da Gianni. Tu, è chiaro che non ti sente, è attaccato a lui, capito? Lui è giù, capisci, a me lui è giù e l'altro è su, capito? Uno è giù, no? Dove abita Gianni, e l'altro è su, capito? Quindi è chiaro che non ti sente. Vabbè, ma senso, che senso ha? Il senso è, non lo so che senso ha, nel senso che è un incompreso, capito? È un incompreso e quindi oramai il senso è quello. Ho capito, però disturbare le persone, già non vuoi mai nessuno, qui si mette questo qua a rompere le balle. Ma c'è anche qualcosa con Gianni perché non glielo dice in faccia? No, ce l'ha con Gianni, ce l'ha con tutti, cosa? Ce l'ha con me, ce l'ha con Gianni, ce l'ha con chiunque, perché ti ripeto è un incompreso, è una persona che è stata abbandonata per il semplice fatto che è un grandissimo geramidoso. Ah ecco, ho capito, peggio degli infermi, là. Ma molto molto peggio, e stiamo cercando anche di proteggerlo, perché io in primis ho detto cerchiamo di proteggerlo, giusto perché ha un'età anche un pochino particolare, però alla fin fine poi qualcuno scoppia, capito? Perché già da diverso tempo che si comporta così, e non penso che ci sia nessun'altra motivazione, la colpa è solo sua. E che ore sono? Le 5 e un quarto, verso le 6 meno un quarto, 6 meno 10 esco, devo passare a Luca a ritirarmi il pace, che mi ha fatto le connessioni, anche il microfono normale, così lo mettiamo qua e abbiamo completato. Che ti dà l'idea? Oh, faccio tutto. Cosa? Finita là, ho detto. Ho riposto il dottor. Io già il bel dottor. Io già il bel dottor, già, ho scelto un biliuro, lascia perdere. Oh, Marco, hai detto non è molto grande. È abbastanza grande. È grande quanto è l'inoite questa radio. Forse non la vedi bene tu. È grande quanto è il 294 questo Midland, no? È piccolino. No, sai perché dico che non sembra grande? Perché sotto nel video che ho visto io c'è un'altra stazione base, che non so se sia il Saturn, però si vede che quella di sotto è più grande. Capito qua? Non riesco a capire cosa c'è sotto. Per fare una proporzione, dai. Se no mi leggo le misure, cerco i dati tecnici, mi leggo le misure, così ho un'idea, dai. Bene, bene, riprendete, vai Luca. Sotto c'è il Linuit, ti ho detto 294 e ci sta sopra, sono uguali. La differenza è che il Linuit 294 è leggermente più alto, ma come grandezza sono uguali perché sono uno sopra l'altro, con i filtrini sotto. Sì, no, vabbè, però io non so che dimensioni ha l'Inuit dal vivo. Io stavo vedendo il video di questo americano, questo volvocione. Eia. Già sono belle molte, naturalmente falle girare sempre, soprattutto la roba vintage, falle lavorare perché poi lasciare ferme si inchiodano, capito? Cioè, Claudio, non è come una storia di K. Guarda, io sto modulando più con i baracchini che con i K, quindi non c'è un problema. Come vedi sono sempre col baracchino. Guarda, l'Inuit 294 senza le maniglie è grande quanto il Galaxy. Ah. Ok, come il Galaxy inteso Saturn, ok. Sì, sì, all'incirca siamo lì, millimetro più, millimetro meno, all'incirca siamo lì, anche come altezza è uguale. Però con le maniglie è più lungo, capito? Come profondità e come altezza sono uguali. Eia, tanta roba, tanta roba. Va bene. Che ore sono? Io vado giù freddo, signori, qua c'è freddo, io me ne torno in camera. Metto un po' di stufa, pure una felpa. Qua lascio acceso, però bianco per me, tanto fra poco si mangia, solita storia. E anche questa giornata, non dico che è passata, ma siamo a metà. Dai, riprendete, se volete riprendere. Io sono qua, volevo vedere se già ne aveva fatto qualcosa. Quindi la modulazione secondo te è meglio dell'Inuit del 294 questa? Le dovrei sentire vicine però Claudio per dirtelo. È una bella modulazione però. Bella modulazione, chiara, più chiara di altre. Più chiara di altre, alle volte avevi quella leggera saturazione che poi sentivo solo io, non so perché, eppure ti ho anche attenuato, tolto l'ANL, non mi ricordo che radio era però, perché ne hai così tante. Poi mi hai fatto ridere l'altro giorno, quando era ieri, che stavi parlando che tua moglie ti ha visto radio, dice ma cos'è di nuovo comprato radio, hai avevo liberato tutto, adesso siamo punti a capo. No, vabbè, l'ho letto perché c'era da ridere, siccome quando ho fatto il cambio delle basi, no, delle scrivanie, ho tolto tutto e ho lasciato qualche giorno tutto libero, eccetera. Ho detto, guarda che bello così che è, ah, finalmente, perché sa anche che ho venduto un sacco di radio, poi mi ho passato gli HF nell'altra scrivania. E ho iniziato a togliere tutte le vintage da dentro la madre perché ne avevo. E poi a comprare, attentate un certo, qua, e si è spaventato. E cos'è quella roba? Ma scusa, non le avevi tutte tolte, non le avevi tutte vendute? No, ho detto, ma sì, no, tutte dentro l'armadio, non mi ha creduto. Eia, va bene, bianco per me, io mi dedico ad altro, dai. Luca, riprendi, ci sei? Sono qua in ascolto, sto guardando una cosettina su eBay. Comprate, fate girare l'economia. No, non è per me, ma è che fa una cortesia. È un localizzatore satellitale di GPS. Tre tracche, boh. Ascolto vocale. Praticamente serve per... non ho capito per cosa lo vuole. Sono al telefono, un attimino, già riprendo subito. Eia. Sì, Lu, potrebbe essere o GPS solo per vedere la posizione tramite tipo uno smartphone, oppure potrebbe essere anche microspia ambientale con GPS o senza GPS pure. E qua adesso sono piccole, ne fanno di tutti i colori, i prezzi sono anche abbordabili, capito? Roba fatta in Cina, prezzi modici. Vediamo se c'è Gianni ancora, così dai, saluto un attimo e vado a fare in cucina, a diraccare. E via, andava. Gianni non c'è, va bene, dai, niente da fare. Ciao Lu, sentiamo. Ci sentiamo alle prossime, quando capita. Qui, ciao. Beh. Attenzione 10, cola su 10, c'è qualcuno? È duro. Oh Marco, vabbè, KK, io attacco il Kenwood. Ok, adesso lo attacco. Aspetta che mi sdraio, va, che ne ho anche diritto, su tutta la sera che sto combattendo. Un po' di relax. E allora Marco, e te mi contas? Marco, cosa sei con me? Ma con Condo ci sei? Un attimino, mi ero distratto già. E vabbè, Così è. Tutto ok. Sì, qua è l'ora giusta per la pappatoia, stavo aspettando mamma che non aveva fame. Appena ne ha, vediamo se mangiamo assieme al limite. C'è nessun altro su 10? Boh, io mi sono mangiato un po' di quel formaggio spalmabile, che è un bel buono, con un pezzettino di pane per togliermi l'angurino. È buono sì quello. Anche quello piccante mi piace, quello al peperoncino spalmabile. Fatto in Sardegna, non tutti, certi sono fatti in Sardegna, ma io già sono di bocca buona, gradisco un po' tutto, non sono solo troppo, vabbè già capito, troppo di parte mi. Chiava. Ora. Pomponio sta entrando per curiosità. Ma non l'ho sentito più io. Ieri era sul 14, sta mettendo un po' di musica. Aspetta un po', prova, che cacchio di modulazione però, boh, non mi scompifera, si sente la del limitatore che entra, vabbè, pazienza. Che becchette, iamma. Si avvicinano le feste, le feste ce le faranno proprio. Non puoi andare manco da parenti, non ho capito, poi si hanno cambiato, si hanno peggiorato le cose, eccetera. Ma te le immagineggi? Ah, vero. E così è Marco. Purtroppo. Cos'è, propagazione? Ho visto un segnale 7. Ma non ho sentito nessuno io, boh. È propagazione 7. Ma Antonio Grotte, ma tu sei tu, Radio 1, 2, è come saturissima, sembri in FM, vai sei copiato. No, c'è Antonio Grotte. Allora Antonio, si è passato da 7 a 8 e mezzo, la modulazione ha incrementato il volume, però è ancora più satura. Sembra in FM, ma già sei in AM, sì. Aspetta, guarda così. Aspetta, così. È bruttina, Anto, bruttina. Poi il segnale un po' va e viene, non so il perché. No, non copiato ora, non copiabile. Anto, ma sei a casa interrogativo o sei in altra sede? No, perché ti ho copiato molto, ma molto meglio l'altra volta. Abbiamo parlato in due, no, dicevo Antonio che l'altra volta l'ho copiato molto ma molto meglio, l'altra volta era chiaro praticamente. Guarda un po' adesso, ora. Netto miglioramento, segnale 9 pieno, vediamo se ti ascolta il doppio run, lo copia adesso. Io già l'ascolto, Antonio, tu mi senti? Sì, arrivate 329, 93, 910, dai 920. Comunque adesso anche la radio ha migliorato. Sì, un abisso profondo, adesso è chiara, potrei dire chiara. Dai, la voce tua consueta, dai. Pappa di Roggero, aspetta un po' di un po' di scarichette, un po' scarichette tipo minchiofoniche, dai. Scorreggiata, la voce è scorreggiata. Trodiata, a me piace dire, la sua sarese. Adesso già va meglio però, dai. Sì, un abisso allucinante. Gianni, il segnale quanto è da te? Prova, tu. Ola. È bassissimo, vabbè, Santiago 1, il segnale. Cosa Santiago 1 e buttacelo quello smitter. No, ti spiego già. Tu hai il 3009 con lo smitter di fabbrica. Io almeno gli avevo messo il 9 come il Kenwood. 9 uguale al Kenwood, quindi va interpretato, l'ho detto tante volte, è inutile ripetermi, però va messo almeno il 9 giusto, se no bisogna fare la cambiare quel diodo, mettere quel diodo famoso per l'azi e smettere tirchio. Adesso attacco l'altro, vediamo un po', va. Sì, è il colmo con quanto che buttino fuori i baracchini con lo smitter inservibile di serie. Cioè li devi già cambiare un diodo, fare tutta la letteratura con l'inettore, i segnali, il suo di fabbrica, quindi è ancora più compromesso, capito? Segna poco e niente. Vabbè, questo non è il 3009, questo è simile al 3009 come smitter, però è questo è come Dio comanda. E comunque un giorno qualcuno mi dovrà spiegare, qualcuno delle menti elette, come mai noi continuiamo a modulare in AM e non in FM, dove si sentirebbe molto meglio. È vero che perde in modulazione a livello di corpo di voce, però sarebbe nettamente superiore. Sì, è quello di cui parlo con Gianfranco. Però piace la M, in Italia piace la M, boh. Lo sai che ho sentito radioamatori di Roma con le SDR, no? Ed erano tutti o in FM o in banda laterale, in AM non era nessuno da Roma. E poi se la modulazione non è molto forte, basta alzare appena il volume ed ecco che magicamente la modulazione risorge in FM. Boh, vabbè, questione di scelte, cosa che ti dica? Dimmi Gianni. No, Gianni forse è occupato. C'ha un ping troppo alto. Qui adesso sono con una cosa, con un dipolo dentro casa. Dentro casa addirittura? Vabbè, qua arrivi, non so la zona, se sei tipo astronauti come da una volta oppure la vecchia sede. Dunque, segnale 9, capibilissimo. No, via Rockefeller. Ok, va bene. Vediamo se riprende Gianni, io a brevissimo andrò a mangiare comunque, molto molto breve. Vediamo se c'è Luca l'uno, Luca l'altro, se c'è Claudio, se c'è Roberto, se c'è qualche anima pia. Andare, io ci sono qua. Aspetta, Luca non c'è perché oggi ha paura che se si acciara deve offrire da bere, che è il suo compleanno. Ci sono, sono qua, dai, in ascolto. Allora paga, cosa ti hai in ascolto? Paga, metti a bere, aiuto. Tanto, aiuto, tutti a bere, aiuto. Sembra che l'unico che va bene qua adesso è Pomponio, che si sta pernacchiando. Vabbè, per Pomponio c'ho la bella dell'Eurospin però, non ne ho comprato. Lui non ha capito che le fa male quella dell'Eurospin, o quantomeno la deve stappare prima di bersela. Ma la berrà sicuramente. Ehi a Gianni, Antu, la berrà sicuramente quella dell'Eurospin, cosa ne dici? La berrà, e tu? Lui si beve direttamente l'Eurospin, tutto completo. Vabbè dai, comunque con oggi sono 46, dai, sono arrivato. A mari estremi, a temi rimedi. Però sì, è un esempio per tutti, vedi, perché se ci sei arrivato tu. Cosa? Auguri Luca, auguroni. Auguroni Luca. Grazie Marco. Cosa hai detto Antu? Tu sei un grande esempio per tutti, perché se ci sei arrivato tu a 46 anni vuol dire che ci sono buoni tutti. Ah, lui sì, andava allora. Dai, faccio una cosettina a sabato, ho invitato giusto due persone così che non si può fare assembramento. Questa è la scusa, dai, non fa niente, già te la passiamo lo stesso. Già passa lo stesso, no? Antu, che via. Per me non c'erano problemi, andavamo al bar, ma non si può andare. Solo la mattina, adesso si chiudono. E come se ti dico, io andiamo al bar adesso, sono chiusi, ma non che lo apri tu, porti i piedi di porco. Ma tu lascia pagato, la fottiti, non lascia i soldi direttamente, poi già ci penso io. Ah, sì, dimmi quale bar è e lascio pagato. Barrau. Da gattare. Ma ti ha chiamato cosa? Ah, si mi ha mandato un messaggio, l'ubroffetta. Ma però non sono sceso in questi giorni, scenderò sicuramente domani. Vabbè, comunque ho detto mettiti d'accordo con lui, poi nel caso vi incontrate, dai Antonio adesso. Ma dimmi una cosa, ma ricottura l'ho più visto dai, lì a... da Decathlon. Da Decathlon, l'amico mio. E che è l'amico mio da Decathlon? Vabbè, su, dai, da Carrefour, ma ti diciamo. Non ti sto capendo però, chi è? Altanit, come chi è? Erfarco. Ah, no, perché da quando hanno chiuso le cose, le sale giochi, la famiglia non c'è più salita. Ah, sale giochi vanno. Sì, sale giochi vanno, sono i maggiori, come si dice, non estimatori, ma usufruttuari, dai. Ma macchinette? Ma non puoi capire quanto. Posteggiano fuori e loro si intruscano, ma sono marito, moglie, più, credo, un figlio. Ma finché non gli si svuotano le tasche non escono. Butto un vizio, per carità. No. Io mamma già me lo sono levato, anche io ero un po' così, da. Un po'. Meno male, grazie a Dio, sono già da Vabbè, da marzo, poi l'hanno riaperto, ma non ci ho messo un euro, no, non conviene, no, perché poi ti rovini, è un casino, poi non pagano, la gente è convinta, ci mette un euro e vince 100, l'ho vinto, sì, uno che mette un euro e vince 100 euro ci sta, aspetta un attimino che, un attimo, ok, ho detto ci sta, però uno che vince 100 euro oggi, poi domani ce ne mette 200 e poi ancora ce ne mette 300 e sale. Lu, se avesse dato i soldi si sarebbe chiamato Bancomat, non slot machine, capito? Facciamo girare, dai, che stiamo monopolizzando, riprendi Marco. Zappa, e io vado a soffocarmi adesso, dai, quindi faccio bianco, così se lascio acceso ma non riprendo. Ciao Antonio, ciao Luca, ciao Gianni. Ci sentiamo fra quando capita, ok? Riprendi Gianni se ci sei ancora. Sì, Gianni mi sa che è andato anche lui a fare carica. E io ciao Lu, buona carica e mi raccomando questa volta il salsiccione masticalo. Riprendi Luca. Tanto va bene, mi stai ascoltando. Bombo. Ah, ok. Sono a boomer anche qua in terrazzo, non sono a casa la mamma, sono qua alla pedoccia. Ma no, stai arrivando benissimo, ti ripeto, per quello che ti può dare di lettura lo smitter quasi 7, no, da 7 a 9, dai. Microfono normale, poi il baracchino sta dando 10 watt, dai, 10-12 watt. No. 12 watt, dai. Gianni, ci sei. Non dire balle, che quello non è un microfono normale. Ma no, sei sato tu, Io. No, Gianni. È compresa, prova. Camera, siamo un PC. Mamma mia, ma ti è arrivata la roba là? Che cosa? Sampli? No. Come sei saturo già? Forse troppo lavoro. No, sei saturo un bel. Puoi fare niente. Adesso? E adesso vai bene già. Perché non togliete il cerogetti? Toglieteli. Proprio compressa, adesso c'è tutta la radio. Bella squillante. Perché prima era massimo dei guardi. Comunque tu, quella lì non è radio normale, quella che tu lascia perdere. E togliete questi Roger Bip che fanno cagare. Ok, no, chi è una radio normale? È amplificata, si sente. Che è avanti? Amplificata. Stai uscendo male, non si comprende nulla di SWD. In FM. No, c'è la modulazione troppo alta, non si capisce niente. Ma che era in FM. Giulio, quella radio sta facendo quell'effetto consueto. Ah, Giulio era comunque, vabbè, sicuro che era un K come cosa, modulazione, perché non fa solo il K quel problema lì. Accoppiato il microfono, auguri. Abbassa, giù, abbassa, comunque ti ho capito, auguri, sei troppo alto, abbassa. Grazie mille. Buonasera a todos. Prova Giulio. Sto guardando la partita, dai. Adesso è basso, troppo basso. Adesso dovrebbe andare bene. No, è bassa. È bassa, è Giulio. Ciao, buonasera a tutti comunque. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Sono rientrato adesso, dai, sono andato a prendere l'aria. Ciao anche a Giulio, ciao a tutti. Ascolta, una domanda te la posso fare, Claudio? Claudio, non c'è. Luca. Sì, Claudio, senti Antonio. Ti ha allontanato che si sta lavando le mani. Antonio chi? Agrod. Oh, Anto, ciao. Sono arrivato adesso, aspetta, sto spogliando. E allora la faccio a Luca questa domanda. Ah, dimmi Anto. So che sei grande e puoi sapere queste cose. Dimmi un uccello che non vola e il cui nome finisce con so. Oh, ho capito, Anto, ripeti. Un uccello che non vola e il suo nome finisce con ZZO. Struccio. Bravo. Volevo dire cazzo, Oh, quello l'ha pensato Luca. Ah, Finocchio. Non l'ho detto perché Giulio si scandalizza. Giulio adesso è più bassa. Sta copiando la partita, guardando la partita, Giulio. Vabbè, ciao, belli bei, a dopo. Ciao Claudio. Ciao raga, ciao a tutti, un bacio a tutti. Un attimino vi arrivo subito. Caro Antonio, il bacio, noi non ne vogliamo la tecla. Io lo voglio. Ah, ok, prenditelo. Accettiamo di tutto di questi tempi. Ma con la lingua lo puoi. Ma così mi si inizia ad arrivare ai 50 anni, dopo i 50 anni si fa la svolta. Se sarà la crisi di mezza età. In tempi di guerra, di miseria, non si butta via niente. Tu ci arrivi a 50, sì, Anto, ce li hai. Attivo, 48 interamente versati. 48? Me ne vinci di due, del 72, sì. Appa di Roger, ottobre. Vegaia, Anda Brex. Lui, ma che raso? Guarda, infatti Pomponio e Gianni Doppio Rum, che fine hanno fatto, hai visto? Gianni? Insomma, il più vecchio sono io, dai. Di noi tre. No, il più vecchio sono io, ne ho 61. Sono le 7 meno 10. Ah, c'è chi sa, perciò l'ha più tardi. Questa mattina mi sono alzato presto. Mi sono piantato una scarpiera. Giusto per mantenere il tempo, a casa della mamma. Oh, allora vabbè. No, una scarpiera, no. Una foto che ti ho mandato, ti ricordi del mio mobile, la cassettiera, uguale. Te l'ho presa anche lì. Per quello che costa è abbastanza bella e spaziosa, la Puglia. Tanto te ne ho già un padre, che ho la casa piena di mobili di mia suocera, tutti buttati via, Dio, cazzo. Adesso vediamo, anno nuovo, l'armadio nuovo. Ok, dai, aspettate un attimo, fatemi sistemare, se no, oggi. Vai, fai. Chi è? Oh, sto uscendo male, chi sei? Mi sento adesso? Ehi, a Massimiliano, adesso sì. Stavo cercando già il Perù, c'è? Cioè. Già, il Perù dovrebbe essere qua. Ehi, ciao Massimiliano. Già, guarda il telefono, ti ho mandato un messaggio. Ciao Luca, là, tutti che forse mi ascoltano. Non riprendo più, là. Ciao, grazie. Ciao. Ciao Massimiliano, avanti Marco. Ehi, qua sogno, non c'è problema. Anto, cos'è che stavi dicendo poco fa? A proposito di che cosa? Oh, cos'è? Ti devo fare un quesito, cos'è la serie di te? Non ti ho compreso. Ma ha già risposto Luca, Vai anche a lui, vediamo un po' se indovina. Un uccello che non vola e che il suo nome finisce con ZZO, qual è? Un uccello che non vola e finisce con ZZO, che non vola, ma cammina, vabbè, lo struzzo. Sentito, vedi? Ah? Sentito? E perché aveva già risposto Marco? No, che cazzo, se non c'era, ho già risposto Marco, se ti ha già detto cosa che stavi dicendo, non ho capito. Vedi, tu sei una persona pura, perché Luca va subito capito male, capito? Ah, beh, se non vola, ZZO, ci sono arrivato un po' in ritardo, però sì, lo struzzo. Può essere anche uno stronzo, come Marco. Strozzo, con due Z però. Strozzo. Come Bricicchetta. Tu lo sai qual è il nome di Luca? Ti aiuto. Capito? Il nome di Luca, ti aiuto. Praticamente una cosa che si schiaccia col piede. Oh, e che cos'è? Una cosa che schiacci col piede. Una cosa marrone che si attacca al calzone, se la tocchi si stacca. No, non è cosa brutta, è una cosa che serve, anche molto utile. Capito? O negativo. Ah, Perivella. Perivella. Sì, Luca Perivella. Docro, Perivella non sono i piedi, no? Ah, Perivella, per mettere in moto la moto, cazzo, come la metti in moto, a spinte? Ho capito, ma perché il paragone? Perché lui si chiama così, capito? Luca Perivella. K di Roger. Vabbè. Ti piace questa modulazione tu? K, abbastanza aggressiva. Sto usando Milan 574 78 574 base. Microfono MB più 5. Ah, ma sai che cos'è? Questa qua è una colonnina interna, non si vede tutta questa differenza con le altre. Vabbè, non è modulazione Kimbo, però già si difende bene, dai. Doppio. Sistemata la radio, alternata ancora sta facendo. Doppio. Come è andato Gianni Doppio Rum? Credo che stesse parlando con Massimiliano, avevano una bassa. Cosa? Aspetta un attimo, mi sta chiamando Ilaria. Un secondo, arrivo subito. Eccomi qua, in Londra. C'è qualcuno? E sempre qua sono io. Oh, c'era il cellulare. Manda bene. E allora? Ah, cosa? La Filippo ci ha portato la... No, sono le 7 già, sono entrato alle samba, sono andato a prendere l'acqua, è l'aria. Ci butta per un momento al bar, adesso dopo vado a portare Filippo. Oh, sono confuso, grazie a tutta la sera presa questa marina. Adesso un cazzo, sono riuscito meno male a concludere, era uno spettone che stava andando per un brillo. Adesso sto uscendo col gas, bene sto uscendo. Alla grande, e io sto scendo col Milano. Cazzo, quello che piace, ma non va. Allora, ho corteggiato da questa estate a Gianni, però l'ho ritirato stamattina, è quello che praticamente non voleva fare, ti ricordi, ti l'avevi chiesto anche tu. È bello già, bello, ma bello veramente, mi piace un bel, c'è una bellissima recensione, poi c'ha 40 canali con le bande laterali, mi mancava un base così, capito? È completo, è quello lì, vabbè, bello completo. Vabbè, e non ne hai preso altri? Con l'altro non l'hai preso? No, già, per il momento no, perché ho preso questo e poi te l'ho detto, sono alla caccia del Simba. Del percepzione, c'ho già il connettore pronto, mi già fatto il connettore del suo microfono, quello da base, se trovo prendo quello, se non lo trovo allora prendo il Galaxy. Adesso come segnale, come ti sta arrivando con il Galaxy? Con 9 e 20 sì, ma te l'ho detto, è generoso molto questo, infatti già ne metto di portarglielo che mi regola lo smitter, capito? appena di 10. L'ho già fatto le misurazioni, sta dando 10 più, capito? E vabbè, te lo scarico con le controlli dai 10 meno e si abusa, stai per fare come faccio io con le, con il 3009, ma il 3009 è come troppo cattivo, 75. Anche questo, so che è questo già. No, ma questo lo so, me l'ha detto di aprirlo. So che ho detto, non te lo porto a te, con cosa lo rigoli? Io devo regolarlo con i segnali miei. Quindi, siccome l'Inoit, il Pace, l'Indec, il DAC, il Poi, sono tutti l'Herbex, l'altro Midland, eccetera, c'hanno tutti la regolazione giusta, capito? Quindi lo faccio giusto. Quando state parlando, mi ha detto dove andare a girare, in fondo quando lo apro lo devo girare al contrario, vicino a fianco al PL, all'ingresso del PL ci sono due trimerini, uno per il ricevitore e uno per il trasmettitore, glielo regolo appena lo richiudo, basta, non devo fare altro. Però vabbè, bisogna saperlo fare. Mamma mia, ho stanco molto, non ho riposato. Ma ieri oggi. Mai è stato zero. Cazzo, non riuscivo a capire che cosa è. Andava a fondo scalare. Cazzo, stazionare a fondo scalare, c'è caduto un E1. E adesso c'è un E1, cioè, non male, andavano a fondo scalare. Io già, te lo sto dicendo, l'ho fatto anche a me, io stavo parlando con 140, con Giulio, a un certo punto ho detto, guarda che ti sei abbassato il segnale, è impossibile, ma è caduta, e invece effettivamente mi ha abbassato il segnale, è andato incontro al PL, capito? Poi non se ne parla, stavo guardando il telegiornale, stavo mangiando, stavo guardando il telegiornale, di colpo manca la luce. E sentito proprio lo scatto del salvamento, sono andato, premevo il pulsante e se mi ritornavo indietro. Toccato, qua c'è qualche cosa. Sono sceso giù a vedere se il contatore era attaccato o era attaccato. Sono risalito su, prima ho staccato il televisore, no, come si fa per vedere che cosa c'è in corso. Poi ho staccato la macchinetta del caffè, era quella lì. La macchinetta del caffè che è stata in corso, poi dopo che ho ripristinato non mi ha attaccato e ha funzionato normalmente, non ci aveva nulla. Non so che cosa sia successo l'abbassamento di corrente. Come facevo io quando lavoravo. A volte andavo negli impianti e trovavo il generale staccato, differenziale proprio della cabina dell'impianto staccato. Lo riarmavo, pum, e staccavo, oh cazzo. Allora andavo ai eliminatori e staccavo una pompa, staccavo l'altra pompa, staccavo l'impianto veloce da me fino a trovare qual era il problema, e di solito era sempre qualche pompa che si intasava quando girava, praticamente forzava e faceva saltare il magnetotermico, capito? Stavo già pensando, agnello scongelato, tutta la roba di Natale, gamberoni, tutta la roba che ho comprato, tutta scongelata, se cazzo non cava la luce. Mi sarebbe rovinata tutta la roba. No, ma non è così, c'è sempre qualche problema di fondo, non è niente. Assolutamente. A me l'ha fatto una radio, quando è andato in corto il DAC, mi saltava il salvavita qua in sala radio. Capito, non capivo cos'era, infatti mi incazzavo con loro, ma sono staccato, mi sono attaccato la vita, poi cazzo ricordando mi ha detto, ma la stanza mia è separata da loro, non ha niente a che fare, capito? Qua c'è un impianto a parte che mi ha fatto l'elettricista, quando è entrato il fulmine, ho tutte le prese, quelle industriali, quelle grosse, comprate alla Elco, eccetera. E invece era il DAC, ho staccato la spina del DAC e il salvavita si riarmava, era andato in corto, capito? Vabbè, però è tutto trovato, il difetto, nel momento pensi già chiamare l'elettricista, il tuo gatto, chi chiama, chi non chiama, già la disperazione è meravigliosa. Poi tu calma, proviamo a staccare una cosa, proviamo a staccare l'altra, per la fine la seconda cosa che ho staccato è proviamo. Beh certo, devi andare all'eliminatore, no? Devi eliminare, stacca che ti stacca, già lo trovi, non è un problema. No, io vabbè, non sono un elettricista, ma grazie a Dio, qualche cosa già la so fare, non è grandi cose, però qualche cosettina già. Quindi sono andato lì a vedere, ed era quello. Va bene, va bene. Bicicletta non c'è. Ma solo che c'è sicuramente sta cenando. No, bicicletta triciclo, bicicletta pedivella, non c'è? Pedivella, dopo se ne deve andare, a casa della ragazza. Ah, cazzo di un prescrocco, no? Ah, ciu ciu. Poi oggi è il compleanno, se l'ho festeggiato. No, non penso lo festeggi oggi, non lo so. E c'era anche Antonio Grode. Quindi già, ti piace più dell'Inuit questa modulazione? È un bel bel, dai. No, sono belle tutte e due, là, cioè, questa è molto bella. La radio, dice da poco, quella. Sì, non c'è un grafio. Bellissima, ti dico già, bellissima. Molto bella, poi. Con Gianni io non ho mai avuto problemi. L'Inuit me l'ha dato perché io lo volevo, ma detto io te lo do, però il tranquillo che ti faccio avere il frontalino nuovo, me l'ha fatto avere dentro la busta nuovo, me l'ha sostituito Luca. La radio è fiammante, veramente bella, quella mi ha detto tu lo stesso, è bella, nuova, il pace, la favola, bellissima anche quella radio, e il Pony lo stesso, sono tutte belle già, veramente tutte belle. Ma io tutto il mobile come da quella lì. Oh! Cazzo molto tutto bello, c'è tutto, bande laterali, luci blu, non è tutto bello. Ma le luci è la prima cosa che cambierei subito io, personalmente. Tu figurati che le ho fatte cambiare a Luca al pace. L'ha restituito poco fa, mi sei nascosto. Le ho portato stamattina e me l'ha dato stasera. Anzi no, le ho portato ieri sera veramente. Stamattina era impegnato, c'erano delle visite, poco fa, prima di passare al bar dell'aria, sono passato a lui, ma lo sono ritirato. C'è la luce bianca, tutto originale. Capito? No, già, che l'ho comprata, stamattina, si può dire, non la do questa. Ero amante di questa radio, quando l'ho vista mi sono innamorato subito, bella, completa, bellissima, molto molto bella. Poi c'è 40 canali, con la banda laterale, io ci avevo solo l'Intec, quello mi hai fatto avere tu, 40 canali, però senza banda laterale, capito? C'ho anche il DAC con la banda laterale, ma è una radio che uso poco, anche se l'accendo ogni tanto, faccio due passaggi, però mi piacciono più queste. Molto bene, molto bene. Si vede che spinge anche perché lo Smith si muove parecchio, da Santiago 9 va a 9.20 e sono stessa distanza dell'MC60, va bene. I watt sono, non so quanti watt stiamo a sta radio, manco misurateli. Claudio, guarda con 747, se il fatto tocchi dopo il truccamento lo spettore, non si sa mai c'era che problema. No, no, va bene, solo che ti abbassa un po' la modulazione, già, cioè, troppo ingresso, aspetta. Scusa che mi ha chiamato Ilaria, che ho portato roba dal bar, ma ha detto se la preparava, preparati, mangiamo tutto. Insegnare con quell'apparato lì come con Milan, come ti ha detto? Guarda, attaccato tu con l'Inuit, che è preciso, mi arrivi sul dopo il più, sul 3, quasi sul 3. Qua invece lo superi il 3, capito? Perché ti ripeto, è troppo generoso, però ti posso dare 9.30 sì già, tu quando sei attaccato sei 9 più 30. Eia, eia, 9.30 si è attaccato, 9.20 liscio e 9.30 attaccato, fai, capito? Però così ti abbassa un pochino la modulazione, adesso è che li stai dando troppo ingresso. Deve essere liscio, oh, yeah. Adesso sta attaccato. Quindi se lo liscio come vuoi. Gappa, gappa. E io, adesso, sempre normale la voce, bella? Beh, 9.30, sul più del 9.30 la voce è bella squillante, bella calda. Vabbè, a 5 ce l'ho, le mie più 5, i toni a 2, tutte le volte così sono, a 5, a 6, a 7, dipende, dai, vabbè, l'Elvex lo tengo a 6, a 7, l'Inuit lo devo tenere a 5 perché c'è la Mickey Game, questa Mickey Game non ne ha, capito, però già spinge bene, Midland no, oh, ho provato, c'era Marco che si è spostato con te, lo sento solo nel 14 e poi basta, non lo sento più, mentre invece con l'Inuit lo sento. Eia, deve essere che non prende colpi. Ma la stai guardando la partita? No, non sto guardando niente, vincendo stavo, perdendo. Sta vincendo 1-0, è finito il primo tempo adesso, ma l'Atalanta sta giocando benissimo. Oh, e chi ha segnato giù? Chiesa da fuori aria, un tiro alle croci. Ah, oh, mi piace Bizzino allucinante, e non tira, quando gioca non tira, mi fa così incazzare. No, sono rientrato poco fa, mi stavo vestendo, quindi non ho acceso ancora niente, né TV, né radio, niente. Poi vabbè, sono già le 7:15, tra un po' vado a portare il cane, e poi guardo un pezzettino a vedere. Avanti già per salutare Giulio. Ciao Giulio, ciao, buonasera anche a te. Ciao Gianni e ciao Claudio, e adesso è finito il primo tempo qua, perché puoi fare il tempo a portare il cane e a rientrare subito per il secondo tempo se credi. E vabbè, stanno giocando bene tutti e due, ma l'Atalanta è formidabile, gioca a memoria negli spazi stretti, è veramente formidabile. Gran bella squadra l'Atalanta, abbiamo visto cosa ha fatto, che campionato ha fatto l'anno scorso. Gran bella squadra, vabbè, però la Juve la vedo migliorare, partita dopo partita, vedo più gioco, più adesione tra di loro, più contatto, la vedo un po' meglio. Sì, sicuramente ha un diverso approccio, peccato che sia infortunato Arthur ed è entrato il francese al posto di lui, peccato veramente perché stava giocando benissimo. Arthur forse molto molto più bravo di tutti a centrocampo, proprio stava praticamente facendo il gioco che faceva una volta Pirlo, lo sai, anche perché lo stesso ruolo, capito? Peccato veramente. Porca miseria, c'è una sfiga, ci picchia, sì l'ho visto giocare, è un giocatore molto molto attento e anche molto veloce a centrocampo, vabbè. Potevano essere due gommi, ha sbagliato uno, Morata di tacco voleva fare il gol, a porta vuota, a porta